They don't play the song on the radio. They don't play the song on the radio. They don't play the song on the radio. They don't show that it's on the radio. They don't know that we are the media. They don't know that we start the media. I don't want to see what I'm making you. I see a big seat and I'm taking you. Walking down the street, I'm the lady. Showing off my map of Tasmania. Sister Heard is Blooming, puntata numero 20, in uno spazio bellissimo che ci viene prestato per un pochetto da Spirito di Patata, che è un pezzo di Spirito di Patata, è qui con noi adesso. Ciao. Eh sì, ciao a tutte, perché mi piaceva traghettare la nostra Donna Sonica in questo spazio pomeridiano, perché tu devi sapere che noi speriamo, magari non è vero che ce l'abbiamo, però noi speriamo di avere tante ascoltatrici affezionate, fan, gruppi di Spirito di Patata, che sicuramente questo pomeriggio saranno delusissime, piangeranno. Sì, questa è la vita, dai. Stanno proprio lacrimando perché non possono cantare le canzoni demenziali e farsi quattro risate con noi, ma invece ascolteranno tantissima bella musica con te, ci ascoltano poi a Spirito di Patata alle 22 fino alle 23 e così facciamo compagnia mentre guardano, no, non guardano la TV perché non si può fare questa cosa contemporaneamente, perché non c'è nulla di bello da guardare mentre, in TV. Magari sono a cena, sai, sì, d'estate, si cena più tardi. Sì, infatti, un bel bicchiere di vino e due risate con Spirito di Patata. Ecco. E grazie del traghettamento. Sì, è stata una. Questa è Donna Sonica, una grandissima trasmissione con Sister Udis Blooming. Buon ascolto. Grazie, grazie Spirito di Patata. Un saluto anche all'altra metà di Spirito di Patata. Quindi ricordate, stasera alle 22 al posto di Sister Udis ci sarà Spirito di Patata. Quindi un cambio di programma, diciamo on the go, come si dice, molto divertente. Per me è stato molto divertente arrivare oggi qui, visto che insomma di solito quando arrivo io è piuttosto buio, le strade sono un po' più vuote, la gente sta andando a cena oppure sta andando a bere qualcosa, quindi insomma c'è un'atmosfera completamente diversa da quella piuttosto caotica e viva invece che ho trovato arrivando qui a San Lorenzo, dove c'è la radio e anche in radio ovviamente, che è super viva. Allora io sono insomma da sola, come sapete, la music spero ci raggiungerà presto, le mandiamo un abbraccio, lo faremo sempre ad ogni trasmissione. Sento che siete già numerosi a farmi compagnia su Facebook, chi ci vuole cercare e ha un account Facebook, il gruppo insomma su cui ci scambiamo notizie, suggerimenti insomma e anche date di concerti che ci sono in giro per Roma è Sisterhood is Blooming, appunto come il titolo del programma. Il telefono per squillini o per comunicazioni varie è 06 4917 50, e vi ricordo appunto che questa volta apro anziché chiudere il martedì femminista e lesbico autogestito. Allora, la musica, volevo partire con qualcosa di allegro, di divertente, di estivo e di insomma che ci facesse anche ballare. So pochissimo di questa nuovissima band, loro si chiamano Knickers ed è appena uscito proprio qualche giorno fa per la Elephant Records il loro primo EP, quindi insomma è un'esperienza nuova. Infatti così si presenta: We Are Knickers, il nostro primo EP è uscito con la Elephant Records a maggio, ascoltateci su Bandcamp. Loro fanno power pop, il pezzo che vi faccio ascoltare subito si chiama My Baby's Just Baby. Not to- Questi erano i Knickers, My Baby's Just a Baby. Giusto un inizio un po' più scoppiettante, più divertente. Quindi siete riusciti a saltare sulle vostre sedioline dove state ancora lavorando, oppure sulle vostre poltroncine d'auto mentre cercate di tornare a casa nel traffico di questa pazza città? Io spero di sì. Cambiamo registro e cambiamo genere. Vi ho parlato vi ho parlato e abbiamo ospitato qualche tempo fa un'artista romana, lei si chiama Elisa Lu, sta per uscire il suo nuovo album e noi siamo molto molto contente di questo, visto che la sua musica ci piace un sacco e visto che ci piace anche, insomma, il suo modo di viverla, la musica, e di condividerla in pieno spirito sisterhood. Vi ho parlato anche della sua etichetta che condivide appunto con un'altra persona, un'etichetta metà Roma e metà Biella, la Bell Net Label, e vi ricordo, andate a guardare quello che c'è sopra, da cui potete scaricare gratuitamente un sacco di bellissima musica di artisti e di artiste elettronici ed ambient veramente molto molto belli, quindi bellnetlabel.com. E intanto ci sentiamo il primo singolo, anche questo scaricabile gratuitamente, quindi insomma fatelo, cioè non vi costa niente ed è musica bellissima. Lei è Elisa Lu e il primo singolo dall'album che sta per uscire si intitola Se fosse per me. Questa era la nostra amica Elisa Lu con il suo nuovo singolo, quindi insomma aspettiamo con ansia il suo nuovo album che uscirà a giugno, a quanto mi diceva. Elisa Lu la potrete ascoltare mentre accompagna con la sua musica una performance che si chiama King Kong Ladies, che ci sarà questo venerdì alla Casa Internazionale delle Donne, quindi insomma andateci, ci sarò anch'io, intorno alle 10:30 dovrebbe cominciare, quindi vi aspettiamo, così magari avete modo di conoscere Elisa e di magari anche farle i complimenti per la sua musica, se vi piace. Intanto, sempre grazie alla Labelnet Label, io spulciavo insomma nelle settimane scorse tra la musica che propongono che è possibile, appunto, vi ricordo, scaricare gratuitamente sul sito e scopro questa interessantissima bedroom producer colombiana, appunto una produttrice che ha il suo studio nella sua stanzetta, è una, appunto, di origine colombiana, ma attualmente vive a Barcellona in Spagna. Ha cominciato a fare musica nel 2003, poi ha girato con le sue performance e con la promozione della sua musica un po' tutto il mondo, il Sud America soprattutto e l'Europa. In questi anni, appunto, ha lavorato esplorando tanti differenti generi musicali, quindi componendoli insieme, mettendoli insieme. Il 19 giugno uscirà il suo nuovo album per una etichetta indipendente berlinese che si chiama Ham Berlin, e quindi Ham sta per Human Ear Music, e quindi insomma potete guardare un teaser di questo nuovo album, quindi un'anteprima, come si dice, su www.lucrezia con la C dalt.com. Uno dei suoi lavori che è possibile scaricare è questo, diciamo, collaborazione con un artista che si chiama F.S. Bloom. A me è piaciuto molto, mi ha colpito molto questo pezzo che si chiama Close to Voss. Quindi, insomma, ve lo faccio ascoltare. Lei è Lucrezia Dalt. Questa era Lucrezia Dalt. Adesso passiamo a qualcosa di completamente diverso. Loro sono due sorelline britanniche, hanno tirato fuori un divertente, anche insomma un EP divertente che ha riscosso un certo successo per un'etichetta britannica, appunto, che si chiama Fiction. E ci sono tanti pareri contrastanti sul web, insomma, tante reviews, insomma, contrastanti. Alcune dicono che sono molto divertenti, molto brave, altre un po' così, niente di nuovo. Sicuramente non saranno originalissime, dentro ci trovate un po' di PJ Harvey mischiata con qualche tocco di Melvins e forse anche delle atmosfere alla XX che tanto ci piacciono. E quindi sì, probabilmente non sono originalissime, ma considerato che sono giovani, questo è il loro primo EP, quindi insomma a me hanno divertito molto. Vi faccio ascoltare un pezzo tratto da questo album che si chiama come loro, cioè 254, scritto come insomma l'orario 2:54. Non si trova quasi nulla in giro sulla rete da potervi far ascoltare, quindi useremo il loro account, il loro spazio su SoundCloud, che vi consiglio appunto di andare a guardare scrivendo 2:54 per cercarle. Il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Got a Hold. Thank you. queste erano 254, due sorelline niente male, che ricordano anche un po' tutte quelle atmosfere dark dei gruppi femminili degli anni 90, almeno a me moltissimo. E spesso sia io che la musica quando c'è o chi viene qui, vi raccontiamo anche delle date che ci sono in giro qui a Roma, anche in altri posti d'Italia che magari, dove magari potete capitare, o magari dove vivete se ci ascoltate in streaming su www.ondarossa.info. Oggi invece vi voglio dire un po' di album che stanno per uscire o che escono proprio nei prossimi giorni, che secondo me appunto vale la pena di scaricarsi, di cercare, di comprare, insomma come fate, come vi pare. Sicuramente non scaricherò, comprerò il nuovo The Garbage, che comunque vi dico che sta per uscire per chi è appassionato, so che siete in tante. Not Your Kind of People è il titolo dell'album che esce proprio oggi. Sta per uscire invece l'ultimo album dei Beach House, che si intitola Bloom, e anche dei Best Coast, che aspetto al varco del secondo album, che si chiama The Only Place. L'album di un artista che vi abbiamo fatto sentire qualche tempo fa, che si chiama Anna Terremain, The Night Visitor è il titolo dell'album, esce appunto domani. Il 22 uscirà il nuovo album dei Gossip, so che siete in tantissima ad essere fan di questa band, e l'album si intitola A Joyful Noise. Il 29 è il nuovo di Regina Spektor ad uscire, What We Saw From The Cheap Seats. In anteprima vi abbiamo fatto ascoltare qualche settimana fa il singolo, diciamo, che era in giro sulla rete. E il 18 giugno un'altra band che ci piaceva un sacco, ultimamente le cose che hanno fatto non sono divine e fantastiche, appunto la band Metric, e l'album si intitola Sintetica. Quindi insomma avete un po' di cose da fare nelle prossime settimane, fatevi trovare preparate. La prossima band, loro si chiamano Color Words, vi avevo già fatto sentire qualcos'altro nelle passate puntate. A me piacciono molto, sono due componenti, la voce di Lindsay Mount e i suoni sono di Billie Jay. È una interessante alchimia, un interessante mescola questo duo che ne viene fuori, che appunto si chiama Color War. Loro definiscono in intervista la loro musica desert dance, car ride and post dark, e sicuramente descrive bene quello che fanno. L'album più recente, uscito da un mesetto, si chiama The Prismatic Collection, e il pezzo che voglio farvi ascoltare, Plate Tectonics. If you don't go, I don't go. Quante volte avete sentito queste frasi, diciamoci la verità, soprattutto tra noi donne? Se non vai, non vado manch'io. Allora, intanto prima di parlarvi della prossima band, visto che ho ancora un po' qualche minuto a disposizione in questo strano scenario di sole e bel cielo azzurro fuori di qui, a differenza del mio solito, vi voglio ricordare intanto xxdonne.net, che è una rivista che tutte voi dovete assolutamente scaricare se non l'avete già fatto, stampare, diffondere, portare in giro e raccontare alle altre, e con un sacco di articoli interessanti, un sacco di rubriche bellissime, insomma molte anche delle compagne che lavorano, partecipano, girano intorno a XX, al martedì femminista e lesbica autogestito, poi collaborano con i loro scritti su XX Donne. E XX Donne è in un momento particolare perché ha bisogno di voi, ha bisogno di sostegno, ha bisogno di soldini sostanzialmente, come spesso accade, e quindi andate sul sito www.xxdonne.net a scaricarvi la rivista e in alto a destra cliccare sul link per sostenere questa rivista e insomma sostanzialmente abbonarvi, e quindi con pochissimi euro dare un contributo enorme per la vita, il lavoro e la sopravvivenza di questa straordinaria rivista di cui c'è bisogno, visto che non ce ne sono in giro. Torniamo alla musica. Appena andate sul sito di una etichetta molto interessante che si chiama Matinee Records, sulla home page c'è scritto sostanzialmente quello che fa la Matinee Records, e cioè da 10 anni pop certificato, quindi bellissime band, divertenti e pop, appunto nel senso più bello di questa parola, sono prodotte da questa etichetta. Una di queste band è l'etichetta è di Santa Barbara, e una di queste band si chiama Strawberry Whiplash ed è un duo scozzese composto da Laz e Sandra. Finora hanno pubblicato 2 EP, l'ultimo è sicuramente molto molto bello, molto ben fatto, si chiama Picture Perfect, ed è un tuffo in un passato musicale che a me è tanto vicino e mi diverte tantissimo da ascoltare. Una voce melodiosa, super morbida, che è accompagnata da chitarre super sporche. Sandra e Laz ci divertono, almeno a me divertono un sacco con la loro musica. Spero che vada tutto bene, visto che il PC da cui vi sto mandando i brani fa delle bizze strane e mi dà dei risultati improbabili, quindi il pezzo che volevo farvi ascoltare è Who's in Your Dream, chi è nei tuoi sogni, e loro si chiamano Strawberry Whiplash. We'll be right back. Strawberry Whiplash, in un tuffo in un passato divertente con queste chitarre super sporchissime. Abbiamo ancora circa un quarto d'orino da passare insieme, prima appunto di passare la palla a temi sfatti, appuntamenti, iniziative, comunicate, idee, azioni di femministe e lesbiche in Italia e a volte nel mondo. Prima di questo abbiamo ancora il tempo per un po' di pezzi da ascoltare insieme. Di Ducky vi avevo parlato un po' di tempo fa, lei è una musicista che suona da quando aveva 13 anni, si chiama in realtà Morgan Neyman, e è uscito un EP molto interessante che si chiama The Weather qualche tempo fa, è ritornata diciamo ad avere un discreto come si dice, rumor, buzz, casino insomma, per un video molto carino che è uscito che si chiama Mouth Like Sidewinder Missiles, che è molto divertente, ve lo posto sul nostro gruppo di Facebook se andate adesso nei prossimi giorni, anche se l'ho postato qualche tempo fa. Sostanzialmente il video è la telecamera ferma fissa su persone che si scambiano il posto e che si baciano in tutti i vari accoppiamenti, donne, uomini, uomini, donne, donne, colli, nasi, orecchie, bocche e quant'altro, quindi è molto bello, molto sexy, molto divertente e molto porno anche tutto sommato, molto, molto erotico. Lei si chiama Ducky, non vi faccio ascoltare il pezzo di questo video, ma ve l'ho posto, il pezzo che ho scelto dall'EP The Weather, che appunto potete trovare in giro in rete perché lei praticamente fa scaricare la qualunque di quello che produce, si intitola Like Rain. Lei è Ducky. Sarà Ducky con il pezzo Like Rain, appunto potete cercarla, scritto Ducky, sulla rete troverete un sacco di cose scaricabili gratuitamente direttamente dalla fonte, da lei. c'è una, diciamo un personaggio con, sotto il nome di Computer Magic, di cui vi avevo proposto un pezzo. Siccome sono in un altro orario, in un'altra fascia, allora ho pensato di riproporla, visto che mi piace tantissimo quello che fa questa 21enne DJ blogger che si chiama Danielle, e, che troverete in giro sotto il nome di Danz, ed è un interessante, diciamo, bedroom producer anche lei. Electronic pop è il tipo di musica che propone, un po' claustrofobica, un po' cupa, ma anche a tratti eterea, quindi insomma un bel mix. Molto spesso lei racconta che la ispirano racconti di fantascienza, quindi insomma, in particolare raccontava di essere stata ispirata da un racconto di Philip Dick per insomma uno dei suoi pezzi più interessanti, che si chiama Electronic Fences. E quindi mi piace anche questa idea di lavorare attraverso quello che si legge e farlo diventare, in qualche modo sonorizzarlo, no? Che è quello che facciamo spesso anche nelle performance live. Quindi lei è appunto Danielle, la potete trovare anche un interessante blog che è appunto sotto il nome di Dance con la Z finale, però in giro la trovate quando fa musica col nome di Computer Magic, è il pezzo che ho scelto per voi, si intitola Help Me. e 342 357 457. Mi hanno ricordato qui in redazione di ricordarvi il nuovo servizio di SMS in diretta Radio Onda Rossa, quindi potete insultarci, massacrarci, raccontarci, informarci in modo che appunto abbiate una voce in diretta al 342 357 457. Io vi sto traghettando verso Atti e Misfatti, che appunto fra pochi minuti arriverà qui ad allietarvi e a raccontarvi appunto degli appuntamenti e delle iniziative, dei comunicati in giro qui in Italia e nel mondo delle femministe lesbiche. E prima di lasciarvi a loro, volevo farvi un po' velocissimo elenco dei prossimi appuntamenti che trovate anche sul nostro blog www.twowomenshow.wordpress.com, dove trovate, oltre ai podcast delle puntate, alle playlist, spesso anche a musica da scaricare, anche informazioni riguardo concerti. Il 17 maggio c'è Annie Mitchell al Crossroads Live, il 13 giugno Theon O'Seas, il 22 giugno O'Land, di cui vi abbiamo fatto sentire delle cose, il 27 Portishead, il 5 luglio Petra Magoni, e anche robetta interessante che insomma non mi aspettavo, tipo il 13 luglio c'è Sharon Jones and Dap Kings, cioè avete presente di che stiamo parlando? La solita Patti Smith e alcuni altri personaggi piuttosto antichi nel senso buono del termine, come Joan Baez, saranno appunto presenti nelle varie rassegne estive che a Roma non mancano mai. Joannes Police Woman, Anna Calvi ancora, è un concerto molto interessante che io vi consiglio, che si chiama, l'artista si chiama T. Seagal, che è un musicista, insomma un signore, ma la batterista e la bassista che l'accompagnano sono davvero fantastiche, quindi poi vi ricorderò, diciamo quando saremo alla fine delle nostre trasmissioni, di appuntarvi questo concerto molto interessante. Allora io chiudo, vi lascio e appunto vi passo la palla a T. Misfatti, per la prima volta aprendo il martedì femminista e lesbico che ho gestito, quindi super felice di questa novità. Lei si chiama Jessie Gretz, è un sound molto smooth, molto, molto morbido, molto delicato, molto incentrato sulla sua voce, molto interessante. Cioè, so pochissimo di lei, è una che ho aggiunto all'ultimo secondo e che ho scoperto da pochissimo, quindi ne so poco più di voi. So soltanto che ha un blog, anzi uno spazio su Tumblr che posso consigliarvi di andare a guardare, che si chiama Don't Die Wondering Music. Tumblr.com, dove appunto posta le cose che fa sia musicalmente ma anche altre cose, foto ed altro, altre cose artistiche che propone. Il pezzo mi piace molto, lo potete trovare anche su Soul Bandcamp. Vi saluta Sisterhood is Blooming, appuntamento fra due martedì alle 17:15, e appunto vi lascio ad Atti e Misfatti passando per Jessie Gretz con il pezzo dal titolo Walk. soul.